Tempo di sport con Carlo Genta. Buongiorno e buona Pasqua a tutti, anche da parte di Giorgio De Luca in redazione, Filippo Aureggio in regia e naturalmente, come vi avevo promesso, di Andrea Zorzi che ha finito di rompere le uova di Pasqua. Bentrovati a tutti, bentrovati e buona Pasqua. E io continuo a leggere, a sentire che insomma gli italiani quest'anno stanno a casa, non hanno soldi per andare in giro, per fare i viaggi, e allora oggi noi vi portiamo in viaggio. Vi portiamo in viaggio grazie alla pallavolo e a cominciare da un grande ospite che non è Andrea Zorzi ma è il CT della nostra nazionale, Mauro Berruto. Buon pomeriggio Mauro. Buongiorno, buon pomeriggio, buona Pasqua a tutti. Adesso ti facciamo raccontare alcune delle tue esperienze in giro per il mondo che poi ti hanno portato sulla panchina azzurra, ma vorrei partire dalla cronaca. A che punto siamo con la preparazione per la World League? A che punto è il lavoro? Su cosa stai facendo in questo momento? Siamo assolutamente fermi. No, siamo fermi perché naturalmente il campionato deve ancora finire, quindi sì. Noi fra pochissimi giorni incominceremo, ma incominceremo solo con quegli atleti che sono già ai loro liberi da impegni agonistici, quindi un gruppo molto ristretto, in attesa dei giocatori che poi completeranno chiaramente la squadra che come primo obiettivo avrà il torneo in Bulgaria, il primo torneo di qualificazione olimpica, che però insomma ovviamente molti di loro saranno coinvolti fino alle fasi finali del campionato, quindi diciamo fra il 21 e il 22 di aprile. Conto di avere la squadra più o meno al completo intorno al 25-26 di aprile, con una doverosa serata che faremo in ricordo di Vigor Bovolenta, che è confermata, quindi sarà il 24 di aprile. Io ho chiesto e i ragazzi sono stati ben felici di concedere uno sforzo naturalmente poche ore dopo la finale scudetto, però credo che la serata in memoria di Bovolo lo meriti e sono tutti felici di essere lì, saranno tutti felici di essere lì quella sera. Non c'è alcun dubbio. Prima di lasciarti ad Andrea, all'interrogatorio di Andrea Zorzi, che prima mi faceva notare che quest'anno magro e digiuno nelle coppe europee, solo una coppa internazionale vinta da Busto Arsizio. Questo ti preoccupa? È un segnale, una circostanza, una coincidenza o nulla di cui preoccuparsi più di tanto? Ma non mi preoccupa, però va interpretata per quello che è, quindi è un segnale. Oggettivamente la leadership delle nostre squadre in Europa, che era così marcata fino a qualche anno fa, oggi è messa un pochino più in discussione. Questo significa semplicemente che ci sono nazioni e campionati emergenti che sono quelli che sono arrivati alla fine di questi percorsi delle coppe, come la Russia, come la Polonia, la Turchia, che ha iniziato a piazzare qualche squadra nelle Final Four, quindi sono sicuramente segnali di un campionato, di una serie di campionati che si stanno avvicinando come qualità al nostro. Bisogna tenerne conto, insomma, non bisogna esserne più di tanto preoccupati, ma bisogna tenerne conto. Proseguiamo con il viaggio geografico di come cambia la forza della pallavolo. Allora, oggi dedicheremo un po' di tempo al mio viaggio straordinario in Iran, in cui ho rincontrato Velasco, il quale mi ha parlato più volte di terzo mondismo, e cioè utilizzavo questo termine per dire sarebbe importante per noi, per l'Italia soprattutto, tornare un pochettino a dare i giusti valori all'impegno, al sacrificio, nella convinzione che questo professionismo a volte sia quasi un limite rispetto ad altri paesi che crescono più in fretta. Cosa ne pensi? Ma sai, io credo che il campionato italiano e la storia della pallavolo italiana negli ultimi anni qualche indicazione ce l'abbia data, no? È indubbio che quando si è punto di riferimento significa che da qualche altra parte del mondo c'è qualcuno che lavora un po' di più di te e cerca di avvicinarsi prima e poi di mettere la freccia e superarti. Questo credo che sia normale e lo proviamo anche noi nei confronti, pensando alla mia nazionale, nei confronti di una nazionale che è stata punto di riferimento e che è ancora punto di riferimento degli ultimi anni, che è il Brasile. Quindi da una parte lo ritengo affascinante, cioè è una delle cose belle del mondo dello sport, no? che quando sei arrivato in cima alla montagna, ecco, hai contestualmente generato atleti, squadre, allenatori che insomma cercano di superarsi per poterti avvicinare. Di sicuro quando uno arriva in cima alla montagna rischia di entrare un po' nella propria zona di comfort, no? Che a me piace dire, definire come il posto più pericoloso al mondo dove vivere. Quando entri nella tua zona di comfort è chiaro che se abbassi la guardia, come caratteristico quando questa cosa succede, presti il fianco a qualcun altro che invece nella zona di comfort ancora non c'è entrato e sta lavorando, non so se dire meglio, ma sicuramente più di te per venirti a prendere. Quindi la vera sfida è proprio quella di essere capaci di continuare a stare fuori, costantemente fuori dalla zona di comfort, anche quando si è vinto tanto, anche quando si sono ottenuti grandi risultati. Avviciniamoci un po' all'Iran, che è un po' il tema della nostra puntata. Che impressione hai avuto incontrando Velasco, conoscendolo piuttosto bene, e giocando una World Cup con un Iran che ha fatto un ottimo torneo? Sì, la sorpresa della World Cup, o almeno una delle sorprese della World Cup, sicuramente è stata questa squadra, che ha fatto una straordinaria prima parte di World Cup. Poi credo inevitabilmente, insomma, magari potendo contare anche su un numero, proprio su una quantità di giocatori non paragonabile alle squadre che stanno in cima al World Ranking, nella seconda parte è andata un po' meno bene, però le imprese fatte dall'Iran nella parte iniziale restano, rimangono, sono estremamente significative e sono, credo, anche indicatore del fatto che quando si sposano, no, quel concetto che dicevi tu prima, questa voglia di emergere, di poter fare qualcosa in più per arrivare in alto, e questa come dire, questa pulsione si incontra con un grande allenatore, con un grande tecnico, con un tecnico che ha un'esperienza internazionale straordinaria come Giulio, vengono fuori delle cose belle. Io nel piccolo, ecco, un piccolo paragone lo posso fare con la mia esperienza finlandese, no? I miei 6 anni passati in Finlandia, dove davvero il punto di partenza del progetto era molto vicino allo zero, una squadra che stava fuori da tutte le competizioni internazionali da tantissimo tempo. C'è stato un fattore determinante, un gruppo di atleti di talento che sono la cosa più importante, e c'è stata questa mia volontà di sposare questo progetto. Il mix delle due cose ha generato anche in quel caso una cosa molto bella. Grazie coach. Grazie a voi. In bocca al lupo e buona Pasqua ancora. Grazie. Il lupo e buona Pasqua. Grazie a Mauro Berruto, coach della nostra nazionale, con cui abbiamo aperto questa puntata in cui Andrea Zorzi ci riporterà tra poco in Iran. Allora, caro Andrea Zorzi, abbiamo aperto questa puntata con l'allenatore della nazionale italiana, Mauro Berruto, un grande colpo, ci ha parlato degli azzurri, ci ha parlato della sua esperienza finlandese, dove è andato a costruire. Adesso però voliamo lontano. Ancora più lontano. Torniamo guarda, sulle tue orme. Te lo presento così. Sì. Questo atleta italiano, sì, della pallavolo, lo invidio un po'. Ma va, perché? Adesso non sarei sincero fino in fondo se dicessi che l'invidia è legata solo al livello tecnico di gioco, ma perché lui ha fatto per tanti anni quello che io ho sempre sognato di fare e non ho potuto fare, non ho avuto il coraggio, cioè chiudere la mia carriera girando per il mondo. Non l'ho fatto perché negli anni 90 il campionato italiano era di gran lunga il più importante, e se uno andava fuori veniva percepito un po' come quello che va a svernare, che va a portare a casa gli ultimi soldi, questa cosa non mi piaceva. Beckham, insomma, roba così. È cambiato moltissimo da allora il tempo, e Daniele Desiderio in realtà è uno che ha viaggiato moltissimo. Quindi intanto benvenuto Daniele. Ciao Daniele. Ciao, grazie mille per il benvenuto. E fai così, presentati un po', soprattutto con queste tappe geografiche che hanno caratterizzato la tua carriera di pallavolista. Allora, la mia carriera pallavolistica intanto è iniziata da emigrante già a 13 anni, perché io mi sono spostato dalla Sicilia a Parma, che già sapete benissimo che è già un bel viaggio, perché spostarsi da un'isola alla terraferma è già un bello spostamento, e forse da lì è iniziato il tutto. Dopo i miei anni iniziali di Parma ho fatto l'esperienza a Treviso con la squadra che ha vinto 2 scudetti e niente, dopo, per ritagliarmi più spazio, avevo scelto di scendere in categoria, andare nella categoria della 2, e dopo, come hai detto tu, dopo la mia voglia di girare il mondo e anche, insomma, penso di aver avuto la bravura di riuscire a sfruttare certe occasioni, mi ha portato a cominciare a girare un po'. Ho iniziato dalla Spagna il primo anno, e poi dopo ho avuto una bellissima esperienza in Giappone, poi 2 anni negli Emirati Arabi e quest'anno in Iran. E adesso in questo momento sei a Dubai? E adesso sono a Dubai, dove ho casa. e dove è nato mio figlio, diciamo, due anni fa. Mi unisco, come si chiama? Lo sentiamo in sottofondo. È Gabriele, qui che sta giocando davanti a me. Che lingua parla? Sì, lui è nato a Dubai, quindi è un mezzo local. Però la gente si chiederà, ci avete parlato di desiderio, ha girato Spagna, Giappone, Emirati Arabi. Cominciato dal facile, non la Spagna, vabbè. Però, oggi parlate di Iran, com'è sta storia? È che Daniele ha fatto 5 mesi in ultimo campionato giocando in Iran, che è geograficamente vicino agli Emirati Arabi, ma è un mondo abbastanza diverso. Quindi qua inizierei a introdurre con te un po' un tuo primo risultato, un tuo primo commento su questi 5 mesi vissuti in Iran, a Tabriz, se ricordo bene. Sì, io ero a Tabriz, che è una città in confine sia con la Turchia che con l'Azerbaijan. Quindi è anche una realtà abbastanza particolare, perché la popolazione locale si parla un dialetto turco e si crede più azera che iraniana, quindi anche un bel mix di culture. E io penso che la frase adatta per questi miei 5 mesi è una frase che ho sentito in un film recente, quello Verso Sud, penso, un film che ha avuto successo in Italia, quello che quando tu arrivi piangi sia quando arrivi che quando vai via. E più o meno è stata la mia esperienza in Iran. Senti, facciamo così, guarda. Semplicemente io ho avuto un impatto iniziale molto duro, perché era molto diverso dalla realtà di Dubai. Poi dopo, in quei 5 mesi, mi è stato ricreduto tutte le mie prime iniziali impressioni. Allora facciamo così, alterniamo allora la tua presenza in diretta con alcune interviste che ho registrato nei miei 20 giorni in Iran, e partiamo dall'unico giocatore di pallavolo iraniano che ha giocato in Italia, Behnam Mahmoudi. Ha giocato a Santa Croce sull'Arno e a Perugia. Intervistato in quei giorni a Teheran, gli ho chiesto: senti un po', come hai iniziato a giocare a pallavolo? Ecco il suo racconto. Io giochi prima uguali a tutti iraniani, calcio in strada, in school, ma io, perché mio tutti famiglia, anche mio madre, mio padre, tutti due alta, io non c'è scarpe per calcio. Dopo, per iraniano c'è uno mese in un anno che fai Ramadan, vicino Azan, vicino che sera che vado per mangiare, un'ora prima tutti vado in strada, in giardini per giro, così. Il mio paese tutti vado per giochi pallavolo, amichevoli, così. Io inizio per così pallavolo, io fisicamente molto bene, perché prima giochi calcio, anche alto, anche bene, reflex, anche salta bene. Dopo 6 mesi che inizia pallavolo, invito nazionale giovane. Sì, 6 mesi sicuro, così. Dopo un anno vado Asian Juniors Games Vietnam. Sì, dopo inizia così pallavolo, anche un anno dopo anche giochi giovani, anche giochi nazionali, tutti e due insieme. Quindi hai capito? Hai iniziato perché non c'erano le scarpe per giocare a calcio. Gli facciamo i complimenti anche per l'italiano, nel senso che ovviamente non è così fluido, ma tra Farsi, che è la lingua che si parla in Iran, non confondetelo con un mondo arabo, e l'italiano è piuttosto complicato ed è interessante. Si parla di scelta legata alle scarpe, non c'era il numero. Si parla di Ramadan, adesso chiederemo anche a Daniele com'è questa situazione. Si parla di pallavolo in cui inizia molto in fretta. E poi sentiremo altre opinioni per quanto riguarda l'idea dello sport generale in Iran di Mahmoudi, ma intanto Daniele, per noi sentire parlare di Ramadan fa ispirare quasi da subito qualche problema, visto che la visione sull'Islam è sempre piuttosto conflittuale. Per te com'è andata questa relazione? Poi voglio aggiungere, sono anche problemi con cui lo sport italiano fa i conti, perché comunque ci sono atleti italiani, calciatori, eccetera, che praticano, lo sapete benissimo, il Ramadan, e questo abbiamo imparato per alcuni club è diventato un problema. Daniele. È una grandissima festa per loro, che diciamo che riunifica tutti, sia a livello familiare che a livello di amicizie. E quindi, giocando soprattutto a Dubai, una squadra composta da tutti i giocatori locali, ho potuto vivere questa cosa da dentro, è stata un'esperienza magnifica per me. In Iran, a Tabriz, è andato con la famiglia? In Iran, la struttura del campionato era molto difficile per andare con la famiglia, perché giocavamo ogni tre giorni, perché dovuto al, infatti il campionato è finito molto presto. La famiglia è venuta tipo ogni mese, un paio di settimane, e loro hanno fatto di tutto per farli stare benissimo. Su quello, guarda, devo dire che sono stati veramente fantastici, perché mi hanno organizzato. Io stavo in una camera d'albergo normale, quando sono venuti loro mi hanno dato una suite grandissima, perché sapevano che avevano il figlio e sono messi a disposizione, non so, avevo avuto 10 persone per me, per loro soprattutto. Questo è stato uno dei motivi perché veramente mi ha fatto ringraziare loro quando poi sono andato via. Ti chiedo anche una conferma, perché tu accennavi al fatto che Tabriz è ai confini con Azerbaigian e Turchia, e quindi rispetto all'immaginario collettivo, che già è piuttosto sbagliato sull'Iran, c'è anche un aspetto che verso nord la popolazione ha, come dire, attesamenti e tradizioni un po' diverse rispetto a quello che noi immaginiamo come quell'integralismo religioso che pare essere l'unica immagine attraverso la quale riconosciamo l'Iran. Quindi è vero che verso la Turchia effettivamente i comportamenti sono un po' diversi? Sì, sicuramente, sicuramente. Guarda, il rapporto che si ha anche con le donne e le regole che ho visto sia quando quelle partite che abbiamo fatto a Teheran, che quando invece vivendo tutta la quotidianità a Tabriz si vedeva la differenza. Sicuramente l'Iran è un paese grandissimo, quindi bisogna capire che, come anche in Italia, ci sono questi paesi di confine che vivono più la realtà, diciamo, più di confine, come tipo Bolzano, i paesi in altro confine, esattamente lì funziona allo stesso modo. Ricordate, l'Iran 5 volte l'Italia, sì. 72 milioni di abitanti, quindi non tantissimi come densità, moltissimi, moltissimi giovani. E questo ovviamente cambia un po' anche le modalità di relazione tra di loro. E c'è anche molto materiale umano da cui attingere per praticare sport. Daniele, prima di fermarci un attimo, ma ti invito a restare con noi per chiacchierare ancora un po'. Una mia curiosità, partiamo da quel film, da quelle lacrime. Quando sei arrivato, l'aspetto più duro con il quale ti sei scontrato, qual è stato? Sono arrivato da una realtà di Dubai dove comunque all'inizio effettivamente è stata durissima, però poi in questi 2 anni mi sono costruito un angoletto di paradiso, perché poi io ho comprato casa qui e ho sistemato la mia famiglia e sto vivendo una realtà molto bella. Quando sono andato lì l'impatto è stato un po' duro, soprattutto perché venendo da qualsiasi parte del mondo, all'inizio l'impatto non c'è nulla, cioè non ci sono, soprattutto a Tabriz rispetto anche a Teheran, una città relativamente piccola, e non aveva né negozi, né cinema, né ristoranti, né diciamo anche la struttura dove ci allenavamo era molto spartana, e quindi dopo un po' mi sono abituato a tutto questo e ho preso tutto poi il resto delle cose che sono positive. Senti, ti chiedo di rimanere in linea con noi, torniamo subito e continuiamo questo viaggio meraviglioso in Iran. Mi unisco comunque, l'ho già detto prima, all'invidia di Andrea Zorzi per Daniele Desiderio, questo nostro giocatore che è andato a costruirsi una vita davvero altrove. Dunque, questa strana puntata pasquale da esportazione, da viaggio vero, ho sempre qui con me Andrea Zorzi, abbiamo in linea Daniele Desiderio, adesso a Dubai, ma reduce dal campionato iraniano. E quindi, imparando un sacco di cose. Tornando all'Iran, utilizziamo di nuovo l'intervista fatta a Behnam Mahmoudi, il quale ci ha raccontato in modo abbastanza preciso in che modo i vari sport hanno effetti e popolarità diverse in base ai punti cardinali di questo grande Iran, ricordiamolo, 5 volte più grande dell'Italia. Quindi Behnam Mahmoudi sugli sport con i punti cardinali. Il nord in Iran è che c'è tanti montagne, non c'è troppo palestra, solo giochi in parchi, in pallavolo, anche wrestling. Anche cavalli, in sud tutti i giochi calcio, perché tanti caldo, anche tutti piace calcio vicino mare. In ovest tutti taekwondo, anche wrestling, anche vado montagna, così ovest shooting, non lo sai come si dice shooting, perché vicino Iraq, perché loro sempre quando che bambino vedere che wrestling shooting anche per cavalli, anche per vuoto, judo, tutti perfetto, anche fisicamente molto bene, molto bene. In Iran perché tutti piace il calcio, adesso arriva buona posizione in Iranian sport. Tutti non paga per palestra, non, in strada un per piccolo pallone, lastica pallone. Vado in strada, giochi con famiglia, con amico, per, solo per questo. Perché non paga tutti. Anche piace calcio, perché in calcio sempre in televisione, sempre molto famose, c'è tanti soldi, tanti soldi. Ma un altro sport in Iran, perché mio religione è molto hero, anche mio Imam Ali molto piace anche mio religione. Bisogno anche tutti vado wrestling. Wrestling, perché wrestling perché loro aiuta, perché persone che non c'è mani, non c'è soldi, non c'è casa, non c'è mangiare. Questo molto molto importante in Iran. Beh, insomma, fa abbastanza impressione sentire come nella parte del paese vicina all'Iraq shooting vuol dire tiro a piattello, vuol dire gli sport con le armi. Ma infatti, al di là di una possibile ingenuità nel descrivere gli sport collegandoli strettamente alla posizione geografica, è interessante però che qui si parla di guerra. Ah. E shooting, si parla di cavalli come tradizioni antichissime legate comunque alle battaglie, si e poi alla fine forse non è chiarissimo, ma lo dice, uno sport molto molto importante tradizionalmente in Iran è la lotta, il wrestling, perché anche per la religione è importante. Ali, il nostro Imam Ali, sapete che in Iran sono sciiti e a differenza della maggioranza islamica che sono sunniti, la divisione è avvenuta proprio per chi doveva essere il successore di Maometto. E Ali era coloro che gli sciiti consideravano il successore destinato. Non è andata così, però anche lì c'è il wrestling, che è quello che porta un sacco di medaglie olimpiche all'Iran, è importante anche per la religione. Ed è molto tipico dell'Iran, adesso chiediamo anche a Daniele, questa continua commistione di religioni, non sempre solo per questioni integralistiche, ma perché c'è una presenza quotidiana e c'è qualcuno che veramente tutti i giorni affronta questo tema seriamente. Hai sentito, Daniele? Sì, no, sono pienamente d'accordo. Poi io l'ho vissuta questa... Ho sempre fatto domande ai miei compagni e loro mi hanno sempre confermato che gli sport principali in Iran erano la lotta, loro chiamano wrestling, e il calcio. E comunque io ho vissuto la pallavolo in un momento di boom, perché se vogliamo dire che gli anni 90 sono stati il boom della pallavolo italiana, secondo me adesso qualcosa in Iran sta nascendo di importante, perché l'arrivo di Velasco ha avuto questa ondata di entusiasmo dovuto soprattutto alla vittoria nei campionati asiatici e all'ottimo risultato nella Coppa del Mondo. E quindi quest'anno io ho vissuto un po', diciamo, questo momento di, secondo me, di scoperta del volley, senti, della parte popolare, diciamo. Un'altra domanda: io ho visto dalle semifinali in avanti che c'è una notevole presenza di atleti bulgari tra i due disponibili per ogni squadra, molti sono bulgari, e tradizionalmente si sa che i bulgari non sono proprio quelli che hanno il miglior approccio, il miglior atteggiamento, il carattere del mondo. E anche Velasco è d'accordo sul fatto che per l'Iran, per i club iraniani, sarebbe interessante rivolgersi anche ad altre nazionalità per avere esempi e approcci molto diversi. Guardo Daniele, quali sono eventualmente le difficoltà principali che dovrebbe affrontare un atleta straniero che si trova in quelle condizioni? Sono pienamente d'accordo con questo, anche perché quest'anno io ho vissuto per la prima volta comunque essendo da italiano, essendo andato lì e loro avendo avuto la maggior parte di atleti, diciamo, di nazionalità bulgara o comunque dell'est, loro hanno apprezzato molto il mio lato professionale, oltre al lato tecnico, diciamo, il mio lato professionale di affrontare la giornata come da atleta. E questo era un fatto che loro hanno scoperto, diciamo, con me, e da questo momento penso che affronteranno in modo diverso, diciamo, gli acquisti. E il fatto che loro hanno preso sempre atleti bulgari perché costavano relativamente un po' meno, però non hanno mai avuto dei grandissimi risultati da loro e quindi sempre scontenti dal punto di vista dell'acquisto dell'approccio. Daniele, ti sentiresti di, come dire, consigliare questa esperienza ad altri atleti italiani o comunque europei, ed eventualmente quali sarebbero i suggerimenti che potresti dargli per evitare uno scontro troppo duro? Guarda, io mi, cioè, sicuramente consiglierei agli atleti di affrontare questa esperienza, però bisogna avere uno spirito che bisogna avercelo dentro dall'inizio, no? Penso che sia abbastanza traumatico per molti atleti italiani che ho conosciuto e ha giocato insieme. Anche condivido, diciamo, condivido. Sia in A1 che in A2. Non penso che sia per tutti. Altra domanda veloce. È chiaro che il desiderio di viaggiare, di conoscere nuove culture, è qualcosa che è innato o che viene sviluppato strada facendo. Tocchiamo un tema molto più pratico. Economicamente com'è la situazione della pallavolo iraniana? Sicuramente il lato economico è migliore rispetto al momento italiano del momento. Sì. Diciamo, il momento economico del, si prendono più soldi in Iran di quanto se ne possa. Quindi sicuramente io lo consiglio agli atleti italiani europei, perché sicuramente loro sono, rispetto a delle voci che ho sentito, se invece sono molto precisi su questo punto, perché di quello che io so, nessun giocatore straniero è mai andato via dall'Iran senza aver preso tutti i soldi, anche per il fatto della religione. Su questo aggiungo un piccolo tema, perché la tua esperienza, sono felice sia molto positiva in questo, non è da trascurare il fatto che tu hai giocato vicino alla Turchia, considerate che quindi quell'area è tradizionalmente e culturalmente vicina alla Turchia, e i turchi sono considerati i tedeschi di quell'area dell'Asia. In altre aree, un po' più a sud, diciamo che la precisione nei pagamenti è un po' meno... Beh, mi sembra facesse riferimento all'intero movimento, no? Esatto, allora, è sicuramente meglio di quanto uno si aspetti, perché quando si pensa ad Iran si pensa a qualcosa che sembra essere assolutamente retrogrado, ma non è così. C'è ancora un po' di attenzione da fare, perché effettivamente alcune volte, per la storia che l'Iran non ha molte relazioni internazionali, per la storia che i contratti vanno guardati con attenzione, non ci sono moltissime possibilità di appellarsi a delle corti internazionali, certo, in caso, certo, e quindi certo, insomma, certo, qualche attenzione ci vuole. L'embargo non è trascurabile, per esempio, è qualcosa che va preso, certo, in considerazione. Ciò nonostante, è una situazione molto interessante che va presa in considerazione, come diceva Daniele, però con l'idea principale che vai lì a fare un'esperienza che non è solo quella sportiva, ma è qualcosa. Ma è chiaro, è un'esperienza di vita, e non tutti sono, ma lo diceva lui molto chiaramente, sono disposti a fare questo tipo di esperienza di vita. In che ambienti si gioca? Questa parte, che è quella turca-Azerbaigian, dove anche penso Andrea abbia visto ad Urumie, esatto, perché più o meno Tabriz è più o meno la stessa, sono Azerbaigian est e Azerbaigian ovest, è un ambiente caldissimo, il pubblico è veramente, trascina la squadra, però a Teheran non è assolutamente così, quindi quello è come in Italia, diciamo, un po' più snob, parti più insomma, calde, parti meno calde, sì. Tanto per dare qualche indicazione, considerate che quell'area, Azerbaigian, capitale Baku, che è diventata negli ultimi anni una delle città che sportivamente fa i più grandi, sì, investimenti, è chiaro, legato al petrolio, tanto per cambiare, però ecco, c'è un confine che in realtà mette a contatto realtà molto diverse, ed è anche per questo che molto spesso gli iraniani si sentono un po' limitati, perché potrebbero fare molto di più, ma per ragioni legate ai loro politici o alla situazione economica, sono vicini a città che si sviluppano velocemente e loro invece rimangono, certo, un po' indietro. Un'altra curiosità che mi volevo far togliere da Daniele, ma girando per l'Iran, in trasferta, eccetera, eccetera, che cosa hai visto che non dimenticherai mai? Che cosa ti è capitato, allora, di vedere che ti è rimasto, guarda, impresso? Mi è piaciuta tantissimo la città di Isfahan. Sì. Che è una città storica veramente stupenda, che mi ha stupito, e penso che veramente lì un un europeo possa tranquillamente viverci senza neanche nessun problema, diciamo, di adattamento. E poi una cosa che non scorderò mai è stato un aneddoto che quando ero questa città anni fa a Isfahan ho conosciuto il figlio di Oliver Stone, il regista americano, sì. Sean Stone, che era lì per un documentario e quei giorni là si era convertito all'Islam. E questa storia qua mi ha affascinato molto perché diciamo un americano in questo momento, figlio di un regista famoso, convertito all'Islam, è stato una, io poi ho avuto modo di, ero nello stesso albergo, ho avuto modo di conoscere e parlarci, è una storia che mi è rimasta impressa. Senti, tu e la tua famiglia invece per quanto riguarda l'aspetto religioso e con questi grandi viaggi come l'avete gestita? Non c'è stato nessun problema particolare perché insomma bisogna rispettare semplicemente le loro leggi, però nel resto non c'è nessun problema di nessun tipo, credo. Tua moglie è italiana? Sì. E quindi, come tutte, ha dovuto portare il velo quando era in Iran, perché su questo non si discute? Sì. Per le donne è un po' più duro perché, diciamo, dopo la prima partita, mia moglie, che le prime due partite che ha visto, il presidente è venuto da me e mi ha detto che mia moglie non poteva più venire a vedere le partite perché le altre donne hanno protestato perché mia moglie veniva e loro no, giustamente, non possiamo creare questo problema. Sì, è così. Un'ultima cosa prima di salutarti e andare a giocare e lasciarti a Gabriele e ai suoi giochi. Dal Giappone invece cosa ti sei portato via? Dal Giappone lì è stata un'esperienza meravigliosa. L'ho realizzata più quando il tempo è passato, perché i ritmi giapponesi per chi vive là e lavora là sono davvero frenetici. Io andavo in palestra dall'inizio, dalle 9 del mattino, andavo fuori alle 6 e giocavamo tutti i weekend due partite, quindi è stato un tour de force. Però quando sono andato via, dopo un anno, mi è mancato tantissimo la loro... Insomma, il Giappone in sé, i giapponesi, come si comportano con gli stranieri, è un posto che è unico al mondo. E Andrea, so che mi appoggia in questo. Assolutamente, è un po' la mia seconda casa. Da turista il Giappone è un paese meraviglioso. Da giapponese è un po' più impegnativo. Parliamone. Grazie Daniele. Prego, grazie a voi. Buona Pasqua e buoni giochi con il bimbo sulla sabbia. Ciao. Mamma mia che invidia. In bocca al lupo. Traffico, poi torniamo a parlare di Giappone, di Iran e abbiamo altre interviste da farvi sentire. Ma sai Andrea, io capisco la tua invidia per Daniele Desiderio, perché tu avresti potuto fare... Magari non in giro al mondo che ha fatto lui, però insomma guarda che Giappone, poi Dubai, poi ti compri casa a Dubai, poi vai a giocare in Iran, ti stabilisci a Dubai, insomma cittadino del mondo, apri gli orizzonti, una cosa meravigliosa. Molti hanno la possibilità di farlo, non lo fanno perché non riescono a staccarsi dalle abitudini italiane, però io credo che sia un modo di vivere che insomma che io invidio profondamente, che io farei. Poi non ho la possibilità, ti confesso anche, non gioco a pallavolo, se giocavo andavo. Ti confesso anche che dal 98 quando ho smesso ho più o meno lavorato principalmente per poter continuare a girare. Sì. È chiaro che avere un'esperienza di 4, 5, 6 mesi, un anno all'interno di un club ti apre delle porte, ti offre dei canali tutti particolari. Come giornalista, adesso mi capita, sono felicissimo di girare e credo sia un grande privilegio, e si rimane però un pochettino più sulla superficie. Quindi insomma in qualche modo continuo a pensare che questa sorta di incontro con le altre culture, con le tradizioni, questa apertura che a volte è un po' complicata perché si tende a chiudersi, come diceva Berruto, nella zona di comfort, siano una grande opportunità. Farlo giocando è una bella opportunità, si incontrano persone particolari, si trovano anche molti professionisti. In Iran, per esempio, c'erano persone occupate negli impianti petroliferi. È un po' più complicato perché poi c'è questa componente del gioco per chi gira per la pallavolo. Però, sai, rispetto a chi lavora in impianti petroliferi, comunque lo sportivo è sempre il lavoratore più privilegiato che c'è. Hai ragione. No? Chi lavora in alcuni impianti, in alcune aree, sta chiuso nel suo ufficio per la maggior parte del tempo, sta lì per 2 o 3 mesi, torna indietro e non ha tantissimi contatti. E giocare invece in questo caso ti offre l'opportunità o anche l'obbligo di confrontarti con la realtà. Tu hai avuto una reale possibilità di andare a giocare all'estero? Sì, ovviamente sì. Il Giappone era un'ipotesi più che... anche perché avendo smesso molto presto ero ancora un giocatore, diciamo, appetibile. Mm. E ripeto, non l'ho fatto perché in quel momento la mia sensazione era che avrebbero percepito la mia scelta come colui che non ha più il coraggio di confrontarsi con la pallavolo di massimo livello e che lo fa perché vuole continuare comunque a restare lì. Era più forte la mia componente agonistica che la componente, che adesso invece trovo assolutamente necessaria, di andare a fare altre esperienze. Però quando un giocatore dice... Non è stato un alibi? Io e te ci conosciamo bene. Questo di dire non vorrei che percepissero questa mia scelta come quella di andare a far quattrini in Giappone. Non volevo. Hai avuto paura a un certo momento di dire mi stacco di qui e vado lì? No, nel senso che in quel momento il campionato giapponese era anche di livello molto basso, quindi avrei potuto davvero giocare con tranquillità. Il problema era che io non volevo assolutamente lasciare la mia componente agonistica, che mi sono sempre confrontato con i migliori. Dove sono i migliori? Sono qui. O resto qui o cambio mestiere. Io tornerei in Iran. Sì, torniamoci. Ma un po' velocemente perché abbiamo un po' di interviste interessanti. La prima è la presentazione dell'allenatrice della squadra nazionale di pallavolo femminile, ovviamente. Sì, sentiamola. My name is Mitra Shabanian. Mi chiamo Mitra Shabanian, ho 45 anni e sono nata in Iran, a Teheran, e gioco a pallavolo da 20 anni. Amo la pallavolo, amo i bravi giocatori. Sono sposata e ho due figli. Il più piccolo ama il volley, ogni tanto gioca e mi batte. Nelle scuole ci sono molti giocatori di volley e in tante città iraniane, perché è lo sport preferito dalle donne in Iran. Qui questo sport è molto professionale, abbiamo buone squadre e chissà, in futuro l'Iran sarà la miglior squadra del mondo. The best team in world. Maybe. Maybe. Maybe. Maybe the best team in the world, perché è vero che stanno crescendo, ma insomma, per arrivare in alto c'è ancora parecchia strada da fare. No, questa era Mitra Shabanian, allenatrice della nazionale iraniana di pallavolo, ma è anche una via di fuga per una donna iraniana? Eh sì, è un'opportunità, è una delle poche opportunità che hanno, ci diceva Madalena Desiderio, che per le donne effettivamente vivere in Iran è abbastanza complicato. Poi per la verità fa parte della loro tradizione. Ci si abitano, le aspettative sono già modulate rispetto a ciò che lo spazio che la società gli riserva. La pallavolo è uno sport molto seguito perché non c'è contatto fisico, c'è questa famosa questione delle uniformi che debbono indossare le donne islamiche, che per esempio non tutte le federazioni internazionali accettano, invece la FEUB lo fa. C'è il fatto che devi giocare con allenatori donne, arbitri donne, in palazzetti riservati alle donne, e quindi questo è un po' una complicazione. Poi essere donne in Iran non è facile. Io direi di sentire un altro frammento di intervista a Mitra Shabanian proprio su questo argomento. È diverso perché noi siamo musulmane, abbiamo il velo e siamo coperte per via della religione. Nel volley non abbiamo problemi perché la rete tra i due team non permette che ci siano conflitti o contatti con le altre persone. Nel basket e nel calcio invece non è così. Quando due giocatori si scontrano può accaderti o possono tirarti il velo, ma nel volley non succede spesso. Non abbiamo restrizioni dall'Islam. Le donne devono fare solo attenzione all'hijab e alla loro uniforme. La Federazione Internazionale Volley è d'accordo con questo abbigliamento. È molto buono per le donne. Possono usarlo e giocare bene, non come se fossero svestite, ma in modo differente. Ma le donne della nostra squadra lavorano con più impegno di quelle senza questi vestiti. Ma lo amano e lo dimostrano. Le giocatrici musulmane mostrano che possono giocare con i team più forti e possono lavorare sodo per raggiungere i più alti livelli nel volley. Io credo che se la Federazione Internazionale Volley aiuterà i team iraniani, potremo stabilire che tutti usino la stessa uniforme, dato che ci sono moltissime squadre arabe e musulmane. Anche in Africa si potrebbe giocare ed arrivare ad avere molte squadre ad alto livello e fare nuove gare. Ci sarebbero 1 miliardo di giocatrici in più. More than 1 billion Muslim. E abbiamo sentito che è presidente della federazione iraniana. Davarzani. Quale ha toccato dei temi che sono cruciali, nel senso che in realtà è partito dicendo non ci sono limiti, poi limiti un po' ce ne sono. Sì. E però alla fine ha chiuso con 1 miliardo di potenziali atlete. Ecco perché l'FVB, che è la Federazione Internazionale, in qualche modo dovrebbe prendere in considerazione anche questo aspetto. Andrea, grazie per il viaggio. Grazie a voi. Peccato che li fai solo tu e non mi porti mai. Ma ci vediamo, io spero, sabato prossimo. Buona Pasqua ad Andrea Zorzi. Buona Pasqua a tutti voi. Giorgio Luca in redazione, Filippo Aureggi in regia. Con lo sport si torna naturalmente domani.